Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. In giro per il mondo ci sono stadi che sono ben più di semplici impianti sportivi. Sono templi, luoghi sacri che ospitano vere e proprie liturgie per milioni di appassionati. Spazi che hanno ospitato la nascita e la costruzione di vere e proprie leggende del pallone. Fra questi luoghi di culto, una posizione in primo piano viene occupata dal mitico Old Trafford di Manchester, soprannome il Teatro dei Sogni. 75.000 posti, tutti a sedere, tutti coperti. Data di fondazione 1910. Impatto visivo semplicemente straordinario. L'Old Trafford ospita, come noto, le partite casalinghe di una delle squadre più amate d'Europa, il Manchester United. Si tratta però di uno degli stadi che l'UEFA ha classificato tra i più sicuri ed efficienti del mondo. Anche e soprattutto per questo, nel 2003, l'Old Trafford ospita la finale di Champions League, la massima competizione continentale. Per raccontarvi la nostra storia calcistica di oggi, partiamo proprio da quel match. È il 28 maggio 2003. Nel Teatro dei Sogni va in scena una finale insolita per la massima competizione continentale. Due squadre italiane si affrontano per contendersi la coppa dalle grandi orecchie. La Juventus campione d'Italia e il Milan, che per giungere a quella finale è partito da lontano, dai preliminari. Comunque vada, sarà una serata di gloria per il nostro calcio. Una serata di gloria comunque lo è anche per due uomini che stanno dalla parte rossonera di quella sfida, per i quali, per motivi diversi, quel prestigioso traguardo ha il sapore di una rivincita e le cui storie sono e saranno indiscutibilmente legate a doppio filo. Andiamo a scoprire insieme la loro vicenda sportiva, partendo dal primo dei due, il faro del centrocampo rossonero, Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Oggi, per tutti gli appassionati di calcio, Andrea Pirlo è il regista. Piazzato davanti alla difesa, testa alta, straordinaria eleganza, Pirlo, nell'immaginario dei tifosi, è il dispensatore di passaggi, l'uomo da cui passano tutte le manovre delle squadre in cui milita, l'architetto di ogni azione da gol. L'affermazione di Pirlo, però, non è stata affatto semplice e lineare come la sua classe potrebbe far pensare. Andrea Pirlo è di Brescia, dove nasce il 19 maggio del 1979. Per la precisione, Pirlo cresce a Flero, paesino di circa 8.000 abitanti pochi chilometri a sud di Brescia. I primi calci, come spesso accade, avvengono sui campetti polverosi dell'oratorio vicino a casa. Lì nasce la passione per il pallone, tanto che papà Luigi decide di iscriverlo ai Pulcini del Flero, la squadra di paese. Fin da giovanissimo Andrea Pirlo capisce che il calcio è nel suo DNA, che sarà la sua vita. Ho sempre solo pensato a fare questo lavoro, tutti quelli che mi dicevano cosa vuoi fare da grande, io non ho mai pensato a nient'altro, sapevo che prima o poi sarei diventato un giocatore di calcio. Il suo primo allenatore si chiama Gino Bolsieri. Ricordando Pirlo, Gino sottolinea come già a 6 anni riuscisse a mettere in mostra qualcosa in più degli altri. Non ci stava mai a perdere e si faceva notare per come lanciava il pallone in verticale, fatto questo molto raro in un bambino. Così raro che il Brescia non se lo lascia scappare e attraverso la Voluntas, di fatto il settore giovanile delle rondinelle bresciane, si assicura il giovanissimo Pirlo. Il presidente del Brescia, Gino Corioni, ricorderà anni dopo che al momento dell'acquisto della società gli dissero: «Nel settore giovanile c'è un fenomeno, si chiama Pirlo». Corioni va a conoscerlo e Pirlo gli si presenta dicendo: «Mi chiamo Andrea e diventerò il più forte del mondo». No, sono sempre stato uno che preferiva cercare l'assist per il compagno, giocare per la squadra. Non sono mai stato un grandissimo goleador e quindi questo mio modo di giocare, di servire i compagni. Andrea Pirlo cresce nelle giovanili del Brescia nel ruolo di trequartista. Ha un idolo, un modello a cui vorrebbe assomigliare, Roberto Baggio. Attenzione, la palla è per Baggio e gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo. Il 21 maggio 1995 il tecnico del Brescia Adelio Moro fa esordire Andrea Pirlo in Serie A. A 16 anni e 2 giorni è il più giovane esordiente del Brescia nella massima serie. Sembra una carriera da predestinato. L'anno dopo torna a vestire la casacca della primavera e la trascina alla vittoria nel torneo di Viareggio. Nel 1996-97 il nuovo allenatore del Brescia, Edi Reia, lo utilizza spesso e Pirlo dà un contributo fondamentale al successo delle rondinelle nel campionato cadetto. È finita così, con l'abbraccio grato e travolgente del suo pubblico, a coronamento di una stagione trionfale, il Brescia, dopo 2 anni, per la nona volta torna in Serie A. Un obiettivo fortemente voluto, artefici un gruppo compatto rigenerato dall'allenatore Reia. In vantaggio gli uomini di Reia con Pirlo al 14esimo di testa su cross di Pergolizzi da sinistra. Insomma, a giudicare da questo inizio folgorante, la carriera di Andrea Pirlo sembra destinata ad essere tutta in discesa. Aggiungiamo un altro dettaglio. Andrea è interista fin da bambino e i nerazzurri sono il suo sogno. Dopo la prima stagione da titolare in A con la maglia del suo Brescia, in cui totalizza 29 presenze e 4 reti, si fa avanti per acquistarlo proprio l'Inter. Sembra il naturale coronamento di una favola. Sì, ero in ritiro con l'Under 21 alla fine del campionato e... il mio procuratore mi chiama, mi dice che era tutto a posto col Parma e quindi ero contento. Poi invece la mattina dopo mi ha detto che stava andando a Milano perché avevano chiamato nella notte Moratti e i dirigenti dell'Inter che mi volevano portare lì a tutti i costi. Il giorno dopo si è fatto. Ero contentissimo, si avverava un sogno, quindi il tifoso dell'Inter, poter giocare nella squadra del proprio cuore era il massimo. Invece le cose iniziano ad andare storte. Pirlo capita all'Inter in uno degli anni più caotici della storia recente del club nerazzurro. Il mercato è ricco, sontuoso, ma un po' disordinato. Arriva di tutto un po', da Roberto Baggio a Nicola Ventola, da Paolo Sousa a Cristiano Sanetti. La superstar Ronaldo inizia a manifestare problemi alle ginocchia e il suo rendimento è molto meno incisivo di quello dell'anno precedente. L'allenatore Gigi Simoni va presto in tilt e non riesce a dare un'identità alla squadra. Viene esonerato a metà stagione. Al suo posto Lucescu, poi Castellini e poi Hodgson. 4 allenatori in una stagione. Pirlo in questo caos gioca poco e non rende al massimo. L'anno successivo sulla panchina azzurra arriva Marcello Lippi e fa a Pirlo un discorso molto chiaro. No, lui ha costruito una squadra per vincere, quindi avendo giocato magari non sempre l'anno prima... era giusto che andassi a giocare con continuità in un'altra squadra, però è stata presa di comune accordo senza... Così Pirlo va alla Regina. A Reggio Calabria, insieme a Callon e all'ex compagno Baronio, Pirlo gioca una stagione su ottimi livelli. 28 presenze, 6 gol e tanta qualità. Questo di foglio, Callon, arriva Pirlo, rete! Pirlo, Regina in vantaggio. Parte Pirlo, pallone morbido, rete! Pirlo! Prova Pirlo, palla che gira, rete! Pirlo, 1-0! Il problema di Pirlo però inizia a diventare evidente. Andrea è un trequartista, gioca cioè dietro le punte, il classico fantasista. Nonostante i piedi siano da fenomeno, quello che manca è lo spunto rapido del numero 10, quel guizzo di dinamismo che nel calcio moderno è assolutamente indispensabile. Pirlo gioca su ritmi che sembrano troppo compassati per quel ruolo. Così quando nella stagione successiva torna all'Inter, incappando in un'altra stagione turbolenta dei nerazzurri, con tanto di esonero dopo la prima giornata di Marcello Lippi, Pirlo non trova spazio in campo. Rimane in nerazzurro fino a gennaio, ma l'allenatore dell'Inter, Marco Tardelli, non lo fa giocare. Poi, per poter trovare continuità, concorda con i nerazzurri il prestito al Brescia, allenato in quel momento da Carletto Mazzone. E il primo mattoncino della svolta che porterà Pirlo verso il suo incrocio decisivo e verso la sua luminosa carriera. A Brescia in quella stagione si è insediato un monumento del calcio italiano, Roberto Baggio. Il Divincodino, come viene soprannominato dai tifosi, è come noto uno dei più forti trequartisti del calcio italiano di tutti i tempi. Questo significa per Pirlo avere di nuovo la strada chiusa. Carletto Mazzone, che è uno che di calcio ne capisce tanto e che ritiene molto semplicemente che i talenti vadano messi in campo, decide di fare un esperimento per qualche mese, arretrare Pirlo. Invece di metterlo a correre dietro le punte, lo fa giocare più arretrato, a dettare i tempi del gioco, lasciando a Baggio il compito di inventare la davanti. L'esperimento funziona, il Brescia fa un grande campionato e Pirlo ha la possibilità di giocare con il suo idolo. Il Brescia arriva a ottavo, un piazzamento storico, ma a fine campionato Pirlo deve tornare all'Inter. Deve tornare a fare il trequartista e probabilmente la riserva. La situazione non gli va certo a genio. Così durante l'estate, nel pieno del calciomercato, si muove qualcosa. Ero in viaggio di nozze con mia moglie e sempre il mio procuratore mi chiama, mi dice che c'era questa opportunità di andare al Milan. Gli ho detto falla subito che vado di corsa. Così per Andrea Pirlo l'esperienza con il suo club del cuore si chiude per sempre. Passa a titolo definitivo dall'altra parte di Milano, dai cugini rossoneri. Fatto sta però che anche i cugini quell'anno vivono una stagione turbolenta. Partono con il turco Fatih Terim in panchina, che salta dopo poche giornate. Il Milan arranca, Pirlo gioca poco. A sostituire Terim però viene chiamato un allenatore italiano cacciato l'anno prima dalla Juventus e che ha in quel momento una pessima fama. Bravo ma perdente. Non sa ancora Pirlo che si tratta dell'uomo destinato a cambiargli la carriera. Il suo nome è Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti. Prima di scoprire qualcosa in più sul percorso che porta Ancelotti al Milan, è bene raccontare il suo straordinario incrocio con Andrea Pirlo. Quando Carletto prende il Milan in corsa nel 2002, Andrea non viene inserito nei titolari. Gioca 18 partite come trequartista di scorta del portoghese Manuel Rui Costa. I rossoneri centrano l'obiettivo minimo, il quarto posto, che consente loro di partecipare ai preliminari di Champions League l'anno successivo. All'inizio della stagione 2002-2003, mentre il Milan si rinforza con gli acquisti di Nesta, Rivaldo e Seedorf, Pirlo, nel precampionato, sembra ancora fuori dall'11 titolare. Fino alla sera del 17 agosto 2003, la sera in cui a San Siro va in scena il classico trofeo Luigi Berlusconi, Milan-Juventus. Per agosto avevamo fatto l'andata del preliminare dove non avevamo giocato neanche bene. Allora nelle settimane successive, prima del trofeo Berlusconi, il mister mi chiama nello spogliatoio e mi propone sta cosa. E io gli dico che andava bene perché avevo già provato a giocare in quel ruolo e quindi lo volevo fare ancora. E da lì è nato tutto. Abbiamo fatto la partita contro la Juventus, è andata bene, da lì è iniziato tutto il cammino. L'intuizione di Ancelotti è questa. Mentre tutte le grandi squadre mettono davanti alla difesa un mediano picchiatore che possa proteggere i due centrali, il Milan metterà lì Pirlo, un costruttore di gioco invece che un interditore. Tutte le azioni, dopo la rimessa in gioco del portiere, partiranno da lui. Una piccola rivoluzione, insomma. Andrea Pirlo gioca magnificamente la partita estiva contro la Juventus. Ancelotti prende coraggio e decide di rischiare. Niente più mediano picchiatore, ma un ex fantasista davanti ai difensori. Quella sera per Ancelotti e per Pirlo è solo una speranza. Si trasformerà in una delle decisioni più felici delle rispettive carriere. All you folks that you own my life. You never made any sacrifice. Demons are on my trail. Standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right. Hands that grab me on the every side. Destini incrociati. Andrea Pirlo, uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. La sua carriera, tuttavia, dopo un inizio folgorante, frena e rallenta, vittima di un equivoco tattico. Considerato un trequartista, Pirlo non possiede, però, le caratteristiche fisiche per il ruolo. Nel 2002, Carlo Ancelotti risolve l'enigma, lo sposta davanti alla difesa e lo trasforma in uno dei più originali registi arretrati degli ultimi anni. È la svolta della carriera e della stagione per Pirlo, ma anche per Carletto Ancelotti, arrivato al Milan solo qualche mese prima, dopo una lunga carriera da giocatore e un ottimo esordio come allenatore. Ancelotti, classe 1959, è stato un grandissimo centrocampista. Nato a Reggiolo, ha mosso i suoi primi passi nel club del suo paese d'origine, per poi esplodere definitivamente nel Parma. Il salto verso il grande calcio avviene nel 1979, quando Nils Liedholm ne pretende l'acquisto per la sua Roma. Dotato di grandi doti fisiche ma anche di ottima tecnica, Ancelotti è un centrocampista moderno e completo, arricchito da un tiro potentissimo. Non lo manca la Roma, che con Ancelotti passa in vantaggio a meno di 2 minuti dalla fine. Il tiro del numero 4 giallorosso è scoccato al volo dal limite dell'area di rigore sul vertice superiore. Con la maglia giallorossa Ancelotti vince uno scudetto e 4 Coppa Italia, sfiorando la vittoria in Coppa dei Campioni nella maledetta serata all'Olimpico contro il Liverpool. Entra anche molto presto nel giro della nazionale, ma i suoi frequenti problemi alle ginocchia ne limitano le convocazioni, facendogli perdere anche il Mondiale spagnolo del 1982. Nel 1987 Ancelotti viene venduto al Milan. Ha 28 anni, è nel pieno della maturità tattica e trova con il nuovo allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, un'intesa perfetta, diventandone una sorta di alter ego sul terreno di gioco. Forma con l'olandese Frank Rijkaard una delle coppie di centrocampo più forti del mondo e con i rossoneri vince tutto. La soddisfazione dall'anno scorso a quest'anno, lo scudetto. Sì, una grande soddisfazione per me, per questi ragazzi, per tutto questo pubblico. 2 Coppe dei Campioni, e la prima in particolare porta la sua firma, dato che Carlo Ancelotti sigla un gol strepitoso contro il Real Madrid a San Siro in semifinale. Gulletti tocca forse con un braccio, l'arbitro fa proseguire, non filtra il pallone, intercettato da Gordillo, toccato a Paco Llorente, il quale viene fermato da Ancelotti, che dà a Tassotti, da questo a Gullit. Gullit lavora sullo stretto, un ottimo pallone, trova l'inserimento, da quindi ad Ancelotti destro, gol! Grandissimo gol di Ancelotti al 18esimo, porta in vantaggio il Milan. E poi 2 coppe intercontinentali, 2 supercoppe europee. Chiude nel 1992 a soli 33 anni, dato che le sue ginocchia scricchiolano. Chiude con lo scudetto sulla maglia e con una doppietta in casa contro il Verona. E infine la doppietta di Ancelotti. Il suo tiro da fuori area e il guizzo da ventenne. Uno così, che già da giocatore era un po' un allenatore aggiunto, non può che finire sulla panchina. Così, dopo un'esperienza di 3 anni come assistente di Sacchi nella nazionale italiana, Ancelotti inizia la sua carriera come allenatore sulla panchina della Reggiana. La parabola che segue la carriera di Carlo Ancelotti è per certi versi simile a quella di Andrea Pirlo. L'inizio è folgorante. La promozione con la Reggiana, poi la panchina del Parma, in Serie A, negli anni d'oro del sodalizio tra la squadra emiliana e la Parmalat. Arriva un secondo posto da record, una partecipazione alla Champions League e soprattutto tanto bel gioco. La Juventus decide di puntare su di lui per il dopo Lippi. L'approdo a Torino non è facile. Ancelotti è stato in passato un duro rivale dei bianconeri, soprattutto quando ha vestito la maglia giallorossa. I tifosi bianconeri si dimostrano freddi nei suoi confronti e non lo ameranno mai completamente. No, perché io sono cresciuto, non è che sono cresciuto col maiale, sono cresciuto mangiando maiale. Io nasco in una famiglia contadina e quindi il maiale c'era la mattina, il pomeriggio, a mezzogiorno e la sera. Quindi offendere, cioè paragonarmi al maiale, insomma, mi sembrava così un'offesa al maiale, perché io al maiale sono cresciuto col maiale. Quindi gli devi tanto. A te piace il culatello? Moltissimo. Allora, sì. Si vede che a queste non gli piace il culatello, gli piace quello che hai detto te prima. A Torino Ancelotti si vede cucire addosso un'etichetta decisamente antipatica, eterno secondo, che equivale a perdente. In 2 stagioni fa più punti di tutti, 144, ma incappa in 2 annate stratosferiche delle romane, prima la Lazio e poi la Roma. Incappa nella surreale giornata di Perugia, dove all'ultima gara di campionato l'arbitro Collina decide di non rinviare la gara nonostante la pioggia monsonica e la fa disputare in ritardo in un pantano. Vince clamorosamente il Perugia e lo scudetto va alla Lazio. Palla profonda in area di rigore, Conte mette fuori, c'è Calori, destro Alessandro! Calori! 1-0! In questo momento la Lazio è campione d'Italia! Incredibile Arcuri! Incredibile Arcuri! È la fine dell'avventura ancelottiana sulla panchina juventina. All'inizio della stagione 2001-2002, Carlo Ancelotti è un disoccupato di lusso. Nella stagione 2001-2002, il Milan punta sull'allenatore turco Fatih Terim, soprannominato l'imperatore. Ci mette poco però Terim a perdere il suo trono, solo qualche mese. All'inizio di novembre, il tecnico turco riceve il ben servito dal presidente Berlusconi, deluso dai risultati insoddisfacenti e dal rapporto burrascoso tra Terim e i senatori del gruppo. Il 5 novembre, Carlo Ancelotti viene chiamato sulla panchina del Milan. Obiettivo primario: riportare il Milan in Champions League anche attraverso i preliminari, centrando almeno il quarto posto. Obiettivo a lungo termine: scrollarsi di dosso il prima possibile l'etichetta di perdente. Il primo obiettivo viene centrato subito. A fine stagione il Milan è quarto e può entrare, seppur dalla porta di servizio, nella massima competizione continentale. Per il secondo ci vuole più tempo. Ma nell'estate del 2002 il sodalizio tra Ancelotti e Pirlo getta i presupposti perché ciò accada. Lui aveva già giocato in quella posizione lì con Mazzone l'anno prima, però gli anni precedenti, però era sempre stato etichettato come un trequartista. E lui espressamente mi ha chiesto di giocare, di provare in quella posizione lì, e abbiamo provato quella partita lì del trofeo Berlusconi, ed è andato molto bene. Quel che succede in quella stagione è anche e soprattutto una conseguenza di quel cambio di ruolo. Il Milan gira come un ingranaggio perfetto, perché Andrea Pirlo, nel nuovo ruolo regalatogli da Ancelotti, è semplicemente sbalorditivo. Testa alta, disinvoltura nell'uscire dal pressing avversario, lanci e verticalizzazioni millimetriche. L'azione parte sempre da lui e non è mai banale. Il nuovo Milan, anche grazie agli innesti di Seedorf e Nesta, va benissimo soprattutto in Europa. Dopo il turno preliminare, i rossoneri fanno fuori nel primo girone Deportivo La Corugna, Bayern Monaco e Lens. Nel secondo, Real Madrid, Borussia Dortmund e Lokomotiv Mosca. Ai quarti arriva uno scontro palpitante contro l'Ajax di Ibrahimovic. Vediamo se il Milan ha la forza per l'ultimo assalto, Costa Curta. Maldini, la sciabolata verso Ambrosini, la torre, c'è il doppio, attenzione, il doppio, pallonetto! Con una rete allo scadere di Pippo Inzaghi, i rossoneri riescono a centrare la semifinale, entrando quindi tra le prime quattro d'Europa. Altri tempi quelli per il calcio italiano. Tre semifinaliste su quattro di quella Champion sono italiane: Inter, Milan e Juventus. La quarta incomoda è il Real Madrid. Dall'urna europea il Milan pesca i cugini nerazzurri. Un derby in semifinale di Coppa Campioni. Un evento raro e straordinario che elettrizza l'intera città. Il Milan ha la fortuna di giocare la prima gara in casa e ha la fortuna di avere in campo un geometra come Andrea Pirlo, che contro la sua ex squadra sforna una prestazione superba. Finisce 0-0 all'andata. Al ritorno il Milan passa in vantaggio con Shevchenko, poi l'Inter pareggia, ma il gol in trasferta qualifica per la finale di Champions il Milan di Ancelotti. Pirlo si prende una rivincita enorme, eliminando la sua ex squadra, quella che non aveva saputo valorizzarlo. In finale ci sarà la Juventus, la squadra che ha procurato a Carletto la fama di eterno secondo. Il cerchio sembra chiudersi definitivamente. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi stiamo raccontando la storia di due grandi uomini di sport, Carlo Ancelotti e Andrea Pirlo. Il primo diventa uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano. Il secondo, uno dei più grandi centrocampisti del mondo. L'uno grazie all'aiuto dell'altro. Pirlo, infatti, dopo che la sua carriera si era ingolfata nel tentativo di emergere come trequartista, si scopre straordinario regista proprio grazie a Carletto, che lo sposta fisso in quel ruolo. Ancelotti, dal canto suo con il Milan, inizia a scrollarsi di dosso la fama di eterno secondo guadagnata quando allenava la Juventus, proprio perché la classe di Pirlo riesce ad accendere il gioco del suo Milan. Siamo tornati là dove la storia era cominciata, nell'evento sportivo che chiude il cerchio e permette ai due di saldare i conti col passato. 28 maggio 2003, Manchester, Milan-Juventus, finale di Champions, attesissima da milioni di tifosi. Non sarà una grande partita, per la verità, e Pirlo non brillerà. Brilleranno i due tecnici, Ancelotti e Lippi, in una sfida scacchistica che produrrà uno statico 0-0. Ai rigori, però, la Coppa se la giudica la squadra di Ancelotti. Allora, tutti in piedi, naturalmente, col fiato sospeso. Se Shevchenko segna, il Milan ha vinto. Se sbaglia, si va avanti ad oltranza. Attenzione. Tutto sospeso in attesa del tiro di Shevchenko. Ci si gioca tutto qua. Shevchenko contro Buffon. Merkel controlla. Può partire. Shevchenko, tiro ed è rete! Rete! Rete! Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia! Un'esplosione di entusiasmo incontenibile! Il presidente Berlusconi rimane immobile! Il Milan ai calci di rigore vince! Dopo 40 anni sarà un altro Maldini dunque ad alzare la Coppa dei Campioni nel cielo d'Inghilterra come Cesare a Wembley nel 63. È il primo trionfo di una serie straordinaria di successi che insieme Pirlo e Ancelotti riescono a portarsi a casa nell'arco di 8 lunghi anni, nei quali il loro rapporto si cementa fino a diventare solidissimo. No, è stato l'allenatore principale anche perché abbiamo passato 8 anni insieme. Abbiamo vinto tutto e tra noi poi c'era un rapporto splendido da papà a figlio, quindi è stato l'allenatore più importante. E padre a figlio, lo so, spero fratello fratello. No, abbiamo avuto un bel rapporto perché è un ragazzo molto sensibile, Pirlo, è dotato di grandissimo humor, molto ironico, molto divertente e... diciamo all'esterno non fa trasparire questa sua vena divertente. Sì, veramente abbiamo costruito un bel rapporto, insomma, al di là dell'aspetto tecnico, perché penso che ho allenato uno dei più forti centrocampisti del mondo, insomma, e lo è tuttora. Pirlo in breve tempo viene ammirato dagli appassionati di tutto il mondo come uno dei registi più forti in assoluto. Il CT del Brasile, Carlos Paeira, ne dà una definizione straordinaria. Lo definisce il più brasiliano dei calciatori europei e lo etichetta come una sorta di Zico davanti alla difesa. Sì, no, sicuramente è stato un modo di interpretare il ruolo in modo diverso dagli altri. Magari prima si preferivano far giocare un giocatore per rompere il gioco, per... centrocampista più difensivo. Pirlo diventa in pochissimo tempo insostituibile anche in nazionale, dove il nuovo CT Marcello Lippi lo considera uno dei pilastri della squadra. Gli hanno trovato quell'altra posizione dove è diventato indispensabile per la propria squadra. Perché io parlo, mi è capitato di parlare molto frequentemente con gli allenatori delle migliori squadre europee e tutti ambirebbero ad avere un Pirlo nella loro squadra, che è un Pirlo. Con un Pirlo in campo hai risolto al 60% i problemi della costruzione del gioco. Con il Milan Pirlo vince due Coppe Campioni, due Scudetti, un Mondiale per club, due Supercoppe Europee, una Coppa Italia. Con l'Italia, una delle più grandi soddisfazioni della carriera, il Mondiale del 2006. Saliamo ancora per il calcio d'angolo, questa volta lo scambio è nostro. C'è Pirlo, libero, potrebbe anche calciare. Lo fa! I trofei che Andrea si aggiudica con il Milan fanno naturalmente anche la fortuna di Carlo Ancelotti, che dall'essere considerato un allenatore poco vincente diventa uno dei più titolati in assoluto del nostro calcio. Alla fine della stagione 2008-2009, Carlo Ancelotti, dopo 8 anni, decide di comune accordo con la società di interrompere il rapporto. Pirlo tra i giocatori del Milan è uno dei più tristi. Sì, era stata un'emozione grande, è un dispiacere enorme per noi tutti, perché ci lasciava veramente una grandissima persona e un grandissimo allenatore, quindi il dispiacere di non vederlo più tutti i giorni era enorme. Ancelotti tenterà senza grande fortuna di aprire un nuovo ciclo al Chelsea, dove comunque si aggiudicherà un campionato e una Coppa d'Inghilterra in due stagioni. Pirlo rimarrà in rossonero altri due anni, per poi trasferirsi alla Juventus, dove si sta dimostrando ancora una volta uno dei più forti centrocampisti del mondo. La fantasia in cabina di regia. La grande intuizione di Carlo Ancelotti. Satellite in my eyes, like a diamond in the sky. How I wonder, satellite strong from the moon.